Marco Gravelli vi dà il benvenuto al secondo appuntamento della settimana di Hard & Heavy su Rock FM, o il quarto se seguite la replica del giovedì. Ben ritrovati insieme per il nostro spazio dedicato al mondo hard rock, metal, trash, power metal, chi più ne ha più ne metta, con novità, interviste e anche riallacci nella prima parte del nostro programma al passato, con alcune band classiche e altre più da culto e magari con proposte difficili da trovare degli anni 80 o 90. Questa sera partiamo, direi, bene con un gruppo che tutti conoscono, con del materiale facilmente reperibile. Ringrazio a livello di materiale naturalmente il nostro autore Simone, che prepara di sera in sera tutte le scalette, nonché il nostro sponsor Mariposa Dischi, situato in Corso Lodi al numero 1 a Milano, sito internet www.mariposadischi.it. Ci accingiamo a parlare dei Cinderella, famosa band glam rock americana creata dal cantante e chitarrista Tom Kafer e dal bassista Eric Bittingham. Tutto questo nel 1983. A line-up ultimata realizzano alcuni demo che gli valgono poi un contratto con l'etichetta Mercury Records, che ne pubblica i primi album e furono un grande successo. Il primo Night Songs esce nell'86, vende più di 3 milioni di copie, 3 dischi di platino. Lo stesso per il seguente Long Cold Winter del 1988, anch'esso con 3 milioni di copie vendute e 3 dischi di platino. In occasione del terzo album però la band riceve diverse critiche per le coordinate musicali intraprese, mentre con l'arrivo del grunge il glam e il Cinderella cominciano a passare in secondo piano, nonostante l'ottimo quarto album che sarà anche il loro ultimo. La band nel 94 si scioglie, si riforma 3 anni dopo per alcune date live, oltre a registrare un paio di brani nuovi inseriti nel loro best of. Lo scorso anno hanno celebrato insieme ai Poison un tour in America per il 20° anniversario dall'uscita del loro primo album. Bene, da questo primo album intitolato Night Song vado a proporre le note di Shake Me in Hard & Heavy su Rock FM, Cinderella. Screaming, scratching, moaning out of bed. I never realized. Le note di Shake Me dal loro album di debutto erano i Cinderella con Shake Me. Altra band molto famosa è quella degli Anthrax, trash metal band americana, precisamente di New York. Il leader è il chitarrista Scott Ian, che creò il gruppo nell'81 insieme al bassista Licker. Quest'ultimo lascerà il gruppo dopo il debutto per dar vita ai Nuclear Assault. Ultimo ad entrare in formazione all'epoca fu il cantante Turbin. L'esordio arriva nell'84 con l'album Fistful of Metal, che li fa rapidamente emergere, diciamo così, dal panorama underground. In occasione del secondo album Spreading the Disease dell'85 c'è da segnalare il cambio di cantante con l'arrivo e l'ingresso di Joey Belladonna e il del bassista a favore di Frank Bello. Importante è l'87 col terzo album, forse il loro più importante, più bello, Among the Living. Nel 93 Belladonna lascia il gruppo per divergenze musicali. Al suo posto entra John Bush, ex Armored Saint, con il quale esce l'ottimo Sound of the White Noise. La band però lentamente perde popolarità fino a Stomp 442, titolo di quest'album che passa quasi inosservato. L'ultimo lavoro in studio è del 2003, We Have Come For You All, questo è il titolo dell'album, mentre più recente è stata la reunion con Belladonna alla voce, durata un paio di anni, che li ha portati anche in Italia dal vivo. Attualmente si vocifera che la band sta lavorando con il cantante Corey Taylor degli Slipknot, anche se non è ufficiale il suo ingresso in lineup. Dall'album Spreading the Disease, oggi andiamo a proporre le note di Armed and Dangerous, Anthrax. classico della band di New York, la formazione in questione è quella degli Anthrax, da Spreading the Disease in Hard and Heavy questa sera con Armed Dangerous. La prossima band che andiamo a proporre arriverà come special guest questa settimana e la prossima a supporto dei Dream Theater per ben 5 date. Il 25 di ottobre saranno alla Land Rover Arena di Bologna, il 26 al Pala Lottomatica di Roma, il 27 al Palasport di Andria, Bari, il 29 al Dutch Forum di Assago Milano, il 30 al Palasport di Padova. Si parla dei Symphony X, il loro ultimo album in studio si intitola Paradise Lost, uscito a fine giugno dopo 5 anni dal precedente The Odyssey. Il capolavoro della band comunque è considerato il loro terzo album, The Divine Wings of Tragedy del 97. Da questo ottimo comunque prodotto, quest'oggi vi presento Eve Seduction, dal lavoro più recente appunto dei Symphony X. We'll be right back. professionisti, non per niente sono stati scelti proprio dai Dream Theater come special guest per il loro tour italiano. Dall'album Paradise Lost abbiamo ritrovato il sound dei Symphony X con Eve Seduction. Si continua e si prosegue con una band che arriva dal passato, però come ieri abbiamo proposto qualcosa dei Vengeance dal passato ma dal presente per un album live, la stessa cosa faremo per gli Winger, celebre band americana nata nell'87 dal cantante e bassista Kip Winger, che faceva già parte della band di Alice Cooper, e del chitarrista Rob Beach degli Whitesnake e Dex Dokken. L'omonimo album d'esordio risale nell'88, c'è da segnalare che ricevette il disco di platino, più di 1 milione di copie negli States, diversi singoli piazzati nelle classifiche, gli valse nel 90 anche una nomination all'American Music Awards nella categoria Miglior Nuova Heavy Metal Band. Dopo il terzo album del 93 la band si prende una lunga pausa, durante la quale i vari musicisti si dedicano ai progetti solisti. Nel 2001 il gruppo si riunisce per registrare una nuova traccia in occasione del Best Of, al quale segue un tour nel 2002. In seguito Kip Winger decide di realizzare anche un nuovo album, intitolato semplicemente Four, uscito lo scorso anno. Il 9 novembre verrà pubblicato questo nuovo album dal vivo, un doppio, dal titolo semplicemente Live, sarà disponibile anche in doppio CD e in DVD, il cui filmato è stato ripreso da 10 telecamere per oltre 105 minuti di musica. A noi andiamo a proporre, proprio da questo doppio CD, Can't Get Enough, la cui versione in studio si trova nel secondo album, In the Heart of the Young, che arrivò al numero 15 negli States. Sono gli Winger. Can't get enough. In uscita il 9 di novembre questo doppio album dal vivo su etichetta Frontiers Record per un mostro sacro del mondo hard rock, appunto Keith Winger, i suoi Winger. Di recente è venuto anche per una session acustica dal vivo qualche settimana fa, proprio qua a Milano. Era Can't Get Enough, motivo che abbiamo ritrovato questa sera, e noi chiudiamo la prima parte di Arden Devi con una band che arriva dal Canada. Hanno pubblicato solo due album in tutta la loro storia, più un best of, sì, una cosa un po' strana. Si chiamano Sword, arrivano da Montreal, composti da quattro elementi. Il loro album d'esordio dal titolo Metalize nel 1986 ebbe un buon seguito, tanto da fargli intraprendere un tour di spalla degli Scooper e in Europa un tour con i Motorhead. Il secondo album si intitolava Sweet Dreams, risale invece al 1988. Lo scorso anno, come vi dicevo, è uscito questo best of di 12 tracce, nelle quali si ritrova anche il brano che andiamo a proporvi questa sera, dal primo album Metalize, che era uscito per una piccola etichetta, l'Aquarius Records canadese. Il pezzo si intitola Children of Heaven, con il quale andiamo praticamente a chiudere la prima parte del nostro appuntamento di questa sera di Arden Devi. Depends on anyone. picture from a dream of someone. Songs like a strike, they seem so hard to find. God only knows, to suffer is the key to creativity. It's on the bees inside. Interessante album, questo nuovo uscito alla fine del mese di settembre per questa band di prog metal che arriva dalla Germania, Poverty is No Crime. Oggi abbiamo scelto una ballad che il martedì non manca mai nel nostro appuntamento di Hard and Heavy. Era The Key to Creativity dall'album Save My Soul, il nuovo lavoro dei Poverty is No Crime, album che abbiamo presentato anche nelle scorse settimane per questo gruppo che nasce nel 91, arriva all'esordio nel 95 con l'album Symbiosis, mentre grazie al secondo lavoro che ottengono date di supporto a Virgin Steel ed Angra. A ben 4 anni di distanza dal precedente lavoro è uscito appunto, come dicevo, a fine settembre questo Save My Soul con 9 brani in totale. Questa era The Key to Creativity. Altra band che arriva dall'America, esattamente da Los Angeles, propongono un solido power metal di stampo tipicamente USA, sono i Resistance. Esce questa settimana il loro secondo album dal titolo Patterns of Control. Il loro album di debutto, Lies in Black, era uscito nel 2004, poi ristampato dalla loro attuale etichetta, cioè la spagnola Lion Music, che ora pubblica appunto questo Patterns of Control, che è un concept album suddiviso in 11 brani. Vi è una piccola novità a livello di line-up con l'ingresso di un nuovo secondo chitarrista proveniente dagli Irax, si chiama Dave Watson. Li andiamo a proporre con il brano End of Today, la formazione è quella dei Resistance. Today per i Resistance direttamente dagli States con il loro album su Lion Music, motivo intitolato appunto End of Today. Invece andiamo al prossimo gruppo, gruppo storico per coloro che conoscono bene la New Wave of British Heavy Metal. Qualche settimana fa vi abbiamo proposto anche un brano dal loro primo album autoprodotto dal titolo Lightning to the Nations, uscito nel 79. Sto parlando dei Diamond Head, che in più fasi nella loro carriera, iniziata nel 76, si sono uniti, risciolti, riuniti, eccetera. Attualmente l'unico membro è il fondatore e chitarrista Brian Tetler, che insieme al batterista Duncan Scott creò la band all'epoca. Oggi lui non è più presente. La lineup venne completata con il cantante Sam Harris e dopo un demo appunto arrivano alla pubblicazione del loro primo album autoprodotto. Successivamente ottengono un contratto con la MCA, che pubblica prima un EP e poi il secondo album nell'82, Borrow Time, che arrivò al numero 12 in classifica in Inghilterra. In occasione del terzo lavoro Canterbury c'è da segnalare l'abbandono del batterista cofondatore, il cambio di bassista e l'ingresso anche di un tastierista, e questo provoca un po' delle scarse vendite. Alla fine quindi la band si scioglie, si riforma nel 91, nel 93 pubblicano un nuovo album, passa un anno la band si riscioglie, si riforma nel 2002 per pubblicare un nuovo lavoro uscito nel 2005. Quest'ultimo esce questa settimana, si intitola What's in Your Head. È l'unico membro fondatore presente, come vi dicevo, il chitarrista Tetler. È stato pubblicato per l'etichetta, verrà pubblicato per l'etichetta Cargo Records. Il pezzo che apre l'album è quello che vi propongo, si intitola Skin on Skin, Diamond Head. Skin on Skin, ben diverso il sound dai loro primi lavori, quando erano appunto nel pieno della New Wave of British Heavy Metal. Il gruppo in questione è quello dei Diamondhead, dal nuovissimo album What's in Your Head, con il quale arriviamo anche all'appuntamento di questa sera con le Metal News. Uscirà il 18 dicembre il terzo volume della Kissology dei Kiss, che va dal 1992 al 2000, cofanetto che conterrà ben 10 ore di musica dal vivo con ben 5 concerti, 100 canzoni dal vivo, commenti della band, più un booklet a colori di ben 20 pagine. I Satyricon, la black metal band norvegese, aprirà la manifestazione dei Norwegian Alarm Awards, che si terrà il 27 ottobre ad Oslo. La band, inoltre, è candidata come miglior album metal, dovrà vedersela con Dimmu Borgir, Mayhem, con Keep of Kalesin e Andrew Horn. Glenn Hughes, verrà pubblicato il 23 novembre un nuovo album dal vivo, si intitolerà Live in Australia e si comporrà di 12 brani. I Power Quest, power metal band anglo-italiana, ha stipulato un contratto con la Napalm Records, che pubblicherà quindi il loro quarto album la prossima primavera. Gamma Ray, sarà l'italiano Alessio Gori dei Flashback of Anger a suonare le tastiere per il tour europeo e giapponese della band tedesca. Il nuovo album si intitola Land of the Free Part 2 ed è in uscita in Italia il 19 di novembre. Noi, come spesso accade qua a Rock FM e soprattutto in Arden Davy, lo abbiamo in anteprima. E da questo album nuovo dei Gamma Ray vi propongo From the Ashes. Yeah. anteprima assoluta. In Ardent Heavy abbiamo ritrovato un estratto dal nuovo prossimo album dei Gamma Ray. Parliamo invece dei Nightwish, a 10 anni dall'esordio. È uscito su Nuclear Blast questo nuovo sesto album Dark Passion Play per la famosa symphonic metal band finlandese, uno dei gruppi più importanti della Finlandia a livello musicale. Ha raggiunto i primi posti in classifica questo nuovo lavoro in Finlandia, Germania, Svizzera, Ungheria, Croazia. Pronto a ricevere dischi d'oro e di platino. Leader del gruppo è il tastierista, fondatore Tuomas, che insieme al chitarrista e al batterista sono gli unici membri originali della band. In effetti il bassista Marco Jetala dei Tyrot, che si occupa anche delle parti cantate maschile, è entrato in occasione dell'album Century Child del 2001, mentre la cantante svedese Annette è la nuova entrata in formazione, lasciando il suo precedente gruppo chiamato Allison Avenue, con il quale aveva precedentemente inciso due album. Ricordo che la band sarà il 2 di marzo del 2008, quindi c'è ancora tempo, a Milano alla Pala Lido, nell'unica data italiana. Oggi li proponiamo con quello che sarà il secondo singolo, Bye Bye Beautiful, da Dark Passion Play Nightwish. Listening to the new Nightwish album, Dark Passion Play, and this track is called Bye Bye Beautiful. Bye Beautiful, da Dark Passion Play, il nuovo pluriacclamato album dei Nightwish. Siamo veramente in dirittura d'arrivo con la prossima band. Arrivano dalla Francia, propongono del power thrash metal, si chiamano Kragens. L'album nuovo in uscita questa settimana, disponibile anche in una special edition con un bonus DVD contenente un concerto tenuto al Killer Fest del 2006 più autografi della band, è il terzo della loro carriera, mixato come il precedente dal bravissimo Tui Madsen, che ha già lavorato per gli Aborted, The Haunted, gli Ectomorph, Dark Tranquility. In line-up rispetto al passato vi è anche l'ingresso di un nuovo secondo chitarrista. Io vi lascio sulle note di questo brano dal titolo Tyranny of God per i Kragens, ripeto, band francese degli anni 2000. Vi lascio insieme a Claudia, al resto dei nostri appuntamenti musicali. Ci ritroveremo domani sera per un altro spazio di Ardent Heavy qua su Rock FM. Da Marco Gravelli, da Simone, il nostro autore, è tutto. A domani, ciao!